fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte. Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi. Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della guerra. Invio! Non si può entrare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Tutti come di consueto. Questa è Radio Possum. Ma soprattutto buonasera a tutti i nazi animalisti e le nazi animaliste in ascolto. Che barbari. Siete dei violenti. E allora, perché iniziamo con tanta gioia? Un attimo. Ma perché? Non c'è perché anche tu sei una nazi animalista di merda, diciamo, violenta, diciamo violenta. Che questa definizione di nazi animalisti l'ha scritta oggi Federfauna. Sì. Citando un cotanto blog di difesa sperimentazione animale. Dai. Gli hanno preso le targhe. Brava, parla violenta, eh? Io pure uno. Vabbè, in tutta risposta è stato detto: li faremo su di voi gli esperimenti. Parlavano proprio di te. È inutile che ridi, Vabbè, insomma, ma di che cazzo parliamo stasera? Parleremo pure un po' di questo presidio fatto alla Menarini, a Pomezia. Poi? Poi del divieto europeo sulla sperimentazione della cosmesi. Questa legge che fa discutere un pochino, E poi se tutto va bene riusciremo ad avere un collegamento telefonico e degli aggiornamenti sul Barcamp 4, che lunedì scorso purtroppo non eravamo riusciti a darvi informazioni, quindi ci riproviamo questa volta. Posso leggere una cosa meravigliosa? Vai. Questo comunque dimostra il fatto che tu arrivi tardi alle punte di redazione. Noi abbiamo detto, non la leggiamo, però va bene, dai, leggila pure. È una cosa veramente meravigliosa, la prendo sempre da Federfauna. Riguardo che a sua volta però trae il tutto da questo blog che si chiama difesa sperimentazione animale wordpress.com e riguarda appunto questa questione di Menarini, di cui poi parleremo in modo più approfondito. Un presidio di 2 giorni e 2 notti per impedire l'arrivo di 8 cani beagle dal Belgio per essere torturati nei laboratori della Menarini, che è una multinazionale del farmaco. Comunque, insomma, difesa sperimentazione animale, che cosa scrive? Gli animalisti hanno assediato la Menarini per 2 giorni e 2 notti, sputi, calci e pugni ai dipendenti, ogni genere di vituperi, non so come si pronuncia, dove cade l'accento, comunque urlati a squarciagola, neanche mia nonna dice più vituperi. Minacce, tutte le auto dei dipendenti devastate, una violenza inaudita. Se lo stesso comportamento fosse stato adottato nei confronti di una qualsiasi altra categoria o etnia, sarebbe stato uno scandalo di proporzioni storiche e ne avrebbero parlato tutti i notiziari del mondo per mesi. Ma dato che coloro che hanno subito queste violenze sono ricercatori, allora non ne parla nessuno, anzi i giornali riportano la notizia osannando gli animalisti come paladini della giustizia. Vabbè. Bravo. Dai, è una cosa meravigliosa, cioè come non si fa a solidarizzare con i ricercatori della Menarini dopo aver letto queste cose? Eh no, ma sono i nazi animalisti, mortacci vostra. Vabbè, e che ne so, canzone? Canzone. Sembra il pianto di un bambino. Allora, torniamo in diretta. Allora, prima di tutto vorremmo un attimo anche invitare chiunque ci stia ascoltando e che ha partecipato al presidio a Pomezia. Insomma, i nostri microfoni sono aperti, quindi se qualcuno vuole intervenire, vuole insomma raccontarci come sono stati questi due giorni e insomma dirci un po' che è accaduto, siamo ben contenti di poter insomma dialogare con voi. E allora a questo punto andiamo a dire quello che è successo davanti a Menarini. Intanto, chi è Menarini? Che cosa è successo? Vediamo un po'. Menarini, insomma, è una casa farmaceutica, un colosso, insomma, che conosciamo multinazionale. Bene, una multinazionale. E in effetti fa anche altre cose, non è solo una casa farmaceutica, anzi acquista qua e là, soprattutto in Asia, abbiamo visto anche dal suo sito. E tratta di biotecnologie. Vabbè, questo presidio è stato interessante perché insomma non ha avuto autorizzazioni, da quello che sappiamo, insomma, però almeno ha ottenuto risultati cosiddetti formali, perché la Menarini ha dichiarato appunto che si appresterà a eliminare o almeno iniziare a sostituire la sperimentazione animale con i metodi cosiddetti sostitutivi, che appunto usano altre tecnologie, e ecco, questo è il risultato. Poi non so se volete parlare di qualcos'altro di questo presidio. Sì, diciamo che da quanto è trapelato, da quanto è girato in giro, si è trattato di un... In realtà è successo che Freccia 45, che è un'associazione del nord che collabora con il comitato Fermare Green Hill, aveva diffuso la notizia dell'arrivo di 8 cani beagle dal Belgio agli stabulari di Menarini, e si è creato un presidio diciamo più o meno spontaneo di persone da Roma, dalla Toscana e via dicendo. Dopo due giorni di presidio, e a quanto scrivono, come abbiamo letto prima, quelli di difesa sperimentazione, insomma, di quella robaccia là, di quel blog, di inaudite violenze e di vituperi e via dicendo, i nazi animalisti, e a cui tra l'altro si è aggiunto anche, sempre da Federfauna, leggiamo lo sdegno della ben amata CGL. E la Menarini alla ma fine, ma che titolo, scusa? Perché come in difesa dei lavoratori di Menarini che sono stati torturati, vituperati e torturati. Usa il linguaggio appropriato, per così dire. Giusto. E questi 8 beagle la Menarini si è impegnata a darli in affido, e quindi non sono entrati all'interno dei laboratori. Noi appunto ripetiamo, le nostre linee sono aperte per chiunque voglia raccontarci com'è andata quel giorno, questi due giorni e queste due notti. Va bene, allora intanto che vediamo se qualcuno chiama, mettiamo una canzone e poi continuiamo a parlare di nazi animalismo. Solo nazi animalismo. Checking it, love music, the record executives wrecking it. Now you can take your chart and then quickly just stick it. See, I'm doing my own thing and I'm kicking it wicked. Now listen up, dickhead, I won't give you a chance to tell me what kind of music I should listen or dance to. That's if I did ask you. See, that's rude. Now just sit back and relax and let this pussy attack you. Hey, there's a hole in the dance floor that is not okay. And now we're hitting the all your dashboard have been corrupted. I don't know what I'm gonna do about it. Maybe just tear it apart. They have been in charge many decades, but they never care for the odds. No, they only care for the charts. Now it's all I want. More and more people are sick with the same old melodies and the same old beats. And sure, they're gonna be shame on me. I'm this one enemy, and if you are too, you got a friend in me. Tell you all your dance floor has been corrupted. The dance floor is a disaster, man, it has been sabotaged. Pardon me for having this hair body interrupted, but I'm trying to tell you all your dance floor has been corrupted. Independent artists all over the world uniting the fight and defend your right to pretend this hour the claim is ready to friendly light and attaining. Better better be me, let me speak clearly. From never seen to everything seen me. All up in your face and free should be TV. From CD and DVD to MP3 and MKV in full HD 1080p and it's way. Pray with me and maybe we can make it real. I keep releasing vinyls with no major deal. I'm not giving the pop or record labels fail. In submission, it's the mission of this constant repetition, just inflicted massive manic oppression. That is the question I would like to ask the man in charge. The dance floor is a disaster, man, it has been sabotaged. Sonic force bending in submission, it's the mission of this constant repetition, just inflicted massive manic oppression. That is the question I would like to ask the man in charge. The dance floor is a disaster, man, it has been sabotaged. E allora noi torniamo in diretta. Tu magari se anziché fumare così partecipi anche a questa trasmissione ogni tanto, non lo so, con le cuffie a volume vecchio, sordo, non lo so. No, senza, con tutto il rispetto per le persone anziane. Ma mi fate parlare qua in radio anche se sono un nazi animalista o mi screziate? Sì, però diciamo che comunque con il tuo atteggiamento violento hai ottenuto quello che hai voluto. Quindi comunque questa cosa proprio non è andata giù né a noi né alla CGL comunque. Forse è vero che vitupero un po' troppo, io sono un po' volgare. Quello è vero che vituperi, però. Va bene. E allora, niente, invece... Non abbiamo interventi. Non abbiamo interventi, nessuno ci vuole raccontare com'è andata la manifestazione e vabbè, ne prendiamo atto. Ci poteva testare. ci poteva andare. E invece no, nel frattempo che succedeva questo in Italia, in Europa succedeva un'altra notizia clamorosa. E questa appunto legge, dire legge è tanto perché in Europa prima di tutto parliamo di direttive. Quindi ecco, poi ogni stato all'interno dell'Unione Europea deve decidere come legiferare in tal senso. Poi un'altra cosa, sì, stiamo parlando di legge che vieterà in Europa appunto queste sperimentazioni sui cosmetici, ma prima di tutto non è una legge esaustiva perché appunto mantiene alcuni test tossicologici, dermatologici. E poi ricordiamo anche che le grandi case della cosmesi non commerciano ovviamente solo in Unione Europea, ma anche in altri paesi come ad esempio la Cina, che richiede obbligatoriamente il test, appunto i test e le sperimentazioni animali per i prodotti venduti nel proprio mercato. Quindi anche qui i risultati sì possono essere, come dire, buoni, ma sempre questa parola ritorna formalmente. Perché ecco, poi parliamo solo di cosmesi, viene sperimentato su tutto, quindi non so. Volete aggiungere altro? Sì, diciamo che appunto quello che c'è sembrato, analizzando un po' più a fondo quello che è stata appunto la notizia spalmata in prima pagina, è che fosse l'ennesimo specchietto per allodere. Sì. Anche perché ricordiamo un'altra cosa, che il regolamento REACH, che appunto è per il welfare animale all'interno delle sperimentazioni e quindi dei laboratori, che parla appunto di anestesia, di sperimentazioni fatte una volta solo sullo stesso animale, ma che comunque appunto è sempre la solita cosa, diamo un contentino per benessere animale all'interno dei laboratori, ma poi finisce lì. E anche un'altra cosa, la stessa direttiva numero 63 del 2010 è comunque una direttiva che appunto è in contrasto con questa legge, quindi ecco, mettetevi in chiaro le cose, come dire. Sì, e poi comunque c'è anche un altro dato, però d'altro canto c'è da dire che se a livello europeo e comunque anche quello che è stata la scelta di Menarini in Italia, eccetera, si muovono tutte quante, nel senso ci stanno questi provvedimenti che calano dall'alto così in risposta a quelle che sono le proteste, evidentemente forse anche il segno che c'è qualcosa che si fa sentire e che evidentemente... Anche se poi appunto vediamo che queste cose non valgono niente, però evidentemente qualcosa sotto che dà fastidio c'è, altrimenti non ci sarebbero neanche questi contentini per cercare di... Anche perché insomma le tecnologie vanno avanti, quindi anche qui l'esperimentazione animale dà sempre più buchi, anche a livello scientifico ci sarebbero insomma tante critiche che abbiamo già fatto in precedenti puntate, quindi senza ritornarci sopra, però le questioni sono tante. E vabbè, dai, un'altra canzone questa sera... Tutte canzoni. Questa è Dead Mouse con Wolfgang Arter e Fit Lee John. Nel frattempo la canzone è già finita mentre leggevi. Non ho ancora premuto play. Vabbè, intanto lo premo come i veri DJ che fanno partire la canzone mentre parlano. E la canzone si chiama Animal Rights. Allora, siamo di nuovo in diretta. Pronto, ci senti? Ciao, sì, vi sento bene. Ciao, ciao a tutti. Ok, ok, ti sentiamo squillanti anche noi bene, insomma, perché a quest'ora della notte di solito sono tutti un po' assonnati. Nonostante siano le 10:30, sì, è vero. No, ci siamo attivi e... Va bene, allora, intanto per chi fosse in ascolto, siamo in collegamento con un compagno del gruppo di supporto ai Barchem 4 e... Ciao intanto. Ciao, ciao a tutti. E allora, se... non mi prendete in giro, parlate al microfono se volete dire qualcosa. Allora, intanto se ci puoi dare, insomma, abbiamo visto tutti quanti la notizia, alla fine sono stati condannati. Sì, purtroppo sì. Beh, prima di dire della sentenza dico che comunque tutte e quattro le persone coinvolte hanno deciso di appellare la sentenza per diverse ragioni di carattere strategico, insomma per diversi motivi comunque si è deciso di appellare, quindi comunque una sentenza definitiva che poi entrerà effettivamente in vigore è da vedersi, cioè, da circa insomma 8 mesi, sono i tempi della giustizia olandese, non sono come quelli italiani, però insomma più o meno di insomma fine 2013 realisticamente. Tutte le persone sono state condannate, la sentenza possiamo dire che rispetto a quella che era stata la richiesta da parte dell'accusa è abbastanza blanda, nel senso che sono state, se può parlare in questi termini, nel senso che tutte le persone coinvolte sono state condannate a 120 giorni di carcere, di cui però 3 delle persone coinvolte hanno già scontato più della metà di questi giorni dentro, quindi solo la parte rimanente di questi 120 giorni e solo nel caso in cui venisse violata la libertà condizionata, questa che in inglese si chiama probation time, essenzialmente significa che per 2 anni a partire dalla sentenza ci sono una serie di cose che non si possono fare, insomma non si può essere arrestati, poi i termini di queste diciamo condizioni possono variare, e se si viene arrestati bisogna scontare chiaramente insomma l'eventuale pena per il reato che si è commesso più i giorni che erano stati precedentemente dati, e a questo si sono aggiunti delle ore di lavori sociali che sono 180 per 3 delle persone coinvolte, quelle che hanno già scontato parte della loro sentenza, della loro condanna all'interno del carcere preventivamente, in carcere preventivo, e invece 240 per l'unica persona che non era stata in carcere prima. Però appunto, essendo appellato, ecco, questa è semplicemente la sentenza di primo grado che cambierà realisticamente tra circa un anno, quando poi ci sarà il secondo grado, l'appello. Senti, allora, una domanda così magari poi puoi pure non rispondere se non lo sai, perché insomma immagino che poi comunque era italiano, cioè, che tipo di reato è che tipo di reato è quello che gli hanno dato in Olanda, visto che comunque siamo abituati in Italia ad altri tipi di pene, certo. Altri tipi di, cioè, quindi un pochino, allora, questa cosa è danneggiamento aggravato, essenzialmente è come danneggiamento aggravato in Italia per quanto riguarda la struttura dell'allevamento. Presunti danni che l'allevatore avrebbe subito alla struttura dell'allevamento, quindi recinto, terreno circostante, insomma il terreno e la parte della struttura, e furto di animali, essenzialmente questo è quello che viene contestato, i due reati. Dicevo blando perché non si è riusciti a, fortunatamente l'accusa non è riuscita a sostenere la loro tesi di un'associazione criminale, che chiaramente avrebbe creato molte più criticità in fase di sentenza, perché comportava pene molto più severe. Scusa, volevo sapere, ma a tuo parere, cioè, perché non si è riusciti comunque a provare questa cosa di associazionismo, insomma, cioè... Certo, perché non c'era nessun altro crimine in cui le imputate erano coinvolte assieme, cioè non c'era nessun'altra accusa che li vedesse coinvolti in crimine assieme. Per provare in Olanda una associazione criminale devono verificarsi almeno 2 reati, 2 fatti che vengono riconosciuti come crimini e in cui almeno parte delle stesse persone coinvolte sono nuovamente coinvolte. Questo non è avvenuto, quindi diciamo che non si è potuta provare l'accusa, non ha potuto provare nessuna struttura dietro all'eventuale azione, ma si potrebbe anche, diciamo, la struttura non era giustificabile perché si poteva ipotizzare una casualità. Quindi non, insomma, questa parte dell'accusa, quindi l'esistenza di un'associazione criminale, a fine di cooperazione animalista, eccetera, eccetera, è caduta completamente. Senti, un'altra cosa, dimmi. Di fronte a questa condanna, che possiamo dirlo per fortuna è relativamente mite, insomma, no? Ricordiamo certo, che questi 4 attivisti sono stati arrestati e condannati in seguito alla, per l'accusa di aver liberato, mi sembra, 5.000 visoni da un allevamento, esatto, di animali, esatto, di pelliccia. Qual è stata la reazione in Olanda della lobby generale degli sfruttatori di animali, e soprattutto visto anche che in Olanda quasi contemporaneamente, non so se adesso hanno proprio già proibito l'allevamento di animali da pelliccia o lo stanno, o comunque c'è stato un primo divieto che poi entrerà in atto a partire dal, sì, 2019, esatto, una cosa del genere. Questi due fatti, cioè la vicenda Barkan 4 e la proibizione di allevamenti di animali da pelliccia, è in qualche modo collegata? Cioè magari ha avuto una risonanza presso l'opinione pubblica che in qualche modo si è mobilitata? E poi appunto anche qual è stata la reazione della lobby degli allevatori, in particolare in generale degli sfruttatori di animali? Sì, ti dico, penso che l'influenza che questo caso abbia comportato sia davvero minima, perché comunque sin dall'inizio, anche come gruppo di supporto per rispettare quello che poi era la volontà delle persone coinvolte eccetera, non si è spinto molto sull'aspetto pubblico di questa vicenda, quindi anche dal punto di vista della presenza per esempio in strada o anche sui media, insomma non c'è stata una grande presenza da parte, diciamo, a sostegno del movimento di liberazione animale o comunque che spingesse contro l'industria della pelliccia. Quindi penso che il divieto, che tra l'altro è una domanda che quando c'è stata la presentazione a Brescia dagli antispecisti libertari proprio un paio di settimane fa, anche lì una ragazza mi aveva fatto, ed è effettivamente strano che ci sia stato questo in Olanda, perché l'Olanda per esempio è l'unico paese europeo o comunque di una certa paese europeo in cui si allevano animali da pelliccia in di un certo rilievo, quindi con una certa presenza sul mercato, che non ha avuto investigazioni, quindi non c'è stata, diciamo, questa forma di pressione da parte del movimento nel cercare di mobilitare l'opinione pubblica contro gli allevatori, contro gli sfruttatori di animali per la loro pelliccia. Quindi è, diciamo, un caso abbastanza anomalo, è un caso che comunque fortunatamente, insomma, è stato approvato questo divieto, che però entrerà appunto in vigore solo nel 2024, quindi le vie parlamentari sono infinite, non si sa che cosa potrebbe benissimo ancora essere, insomma, modificato, revocato, posticipato, però per ora dovrebbe avvenire nel 2024. E le reazioni sono state anche abbastanza miti, l'unica che insomma degna di rilievo è stato un commento che è stato registrato da un ipotetico, immagino, allevatore, non so se di animale da pelliccia o di qualche altro animale, aveva scritto un commento sotto uno degli articoli che sono apparsi sui giornali online riguardo alla sentenza, dicendo è inaccettabile che li abbiano lasciati fare, perché insomma sembrava che ci fosse, insomma penso che ci fosse il sentore anche da parte delle persone che magari erano esterne alla vicenda, che comunque c'era la volontà da parte delle autorità, della polizia eccetera, di incastrare, no, un pochettino le persone, quindi che non ci si spiegava, e tuttora non ci si spiega, non è stata data una spiegazione, perché delle persone che a detta dell'accusa erano seguite dalle 7 di sera, della sera diciamo durante la quale sarebbe poi avvenuta l'azione, siano poi state arrestate solamente alle 3:30 di notte, una di loro, quando il fatto era compiuto, nonostante ci fossero fior fuiore di squadre di polizia, insomma di altre insomma forme di spiriti che li seguissero. E quindi l'unico, insomma, commento che si ipotizza arrivi da qualcuno comunque dell'ambiente degli allevatori è stato questo. Per il resto è come detto precedentemente, si è tutto svolto in maniera abbastanza mite, nel senso che non c'è stato grande clamore mediatico, non ci sono state grandi reazioni, non c'è stato dibattito, ecco. E un'altra cosa, forse tu, seguendo la vicenda del Barkan 4, sicuramente un po' lo conosci, ci puoi dare una descrizione del movimento di liberazione animale olandese? Che noi, per esempio, vedendolo un po' esternamente, in Olanda c'era sempre stato un movimento di liberazione animale molto forte, che però sembra che negli ultimi anni, almeno a quanto si vede dall'esterno, è un po' calata la presa, diciamo. Però questa, ti ripeto, certo, è una sensazione assolutamente così, cioè vista dall'esterno, vista da un altro paese. Tu puoi confermare questa impressione o no? Sì, sì, assolutamente. Ovviamente la percepisco anche in maniera esterna. Io faccio parte del gruppo di supporto, ma non sto in Olanda. Però sì, purtroppo sì, nel senso che comunque la repressione ha sicuramente giocato un ruolo fondamentale, perché comunque l'esempio, il caso dei Barkan 4 è solamente, diciamo, il più recente, però ci sono state in Olanda, per esempio, anche quando c'è stata la prima grande operazione repressiva, la campagna Shaq, quella che era stata nominata Operazione Achilles, che poi aveva portato agli arresti di molte persone coinvolte nella campagna, aveva visto numerose perquisizioni in Olanda, persone comunque che partecipavano alla campagna in Olanda si erano viste coinvolgere in questo tipo di attività repressiva. Quindi sicuramente con il tempo, poi ci sono stati una serie di episodi abbastanza gravi, c'era stata la proposta da parte delle autorità di stilare un documento che tutti i gruppi animalisti avrebbero dovuto firmare in Olanda, che prendeva le distanze dall'azione diretta, che quindi era un documento che voleva fare un po' la distinzione buoni e cattivi, e già al tempo comunque in un movimento forse, come dicevi giustamente tu, più determinato, solamente un gruppo aveva detto che non avrebbe firmato un documento di questo genere. Quindi già questo, ecco, ci lascia magari intendere che sicuramente il tempo probabilmente e la repressione hanno modificato un movimento che invece una volta era molto più determinato e radicale. Adesso non ci sono, a dire la verità, neanche poi molti gruppi. Ci sono un gruppo che si occupa prevalentemente di campagne, che si chiama Respect for Diren, che segue la campagna contro Airfax KLM, ed un gruppo invece che fa prevalentemente investigazioni e quindi cerca di sensibilizzare riguardo al veganismo, che si chiama Ongeort. E per adesso si parla di quelle che in Italia potremmo identificare come più o meno grosse associazioni, come la Coalizione contro la vivisezione, che è un'associazione antivivisezionista olandese, che essenzialmente, ecco, è un'associazione, quindi non fa più parte del movimento di base assolutamente. A questo punto, l'ultima domanda, a questo punto la campagna continua, o sono previste altre iniziative di sostegno, benefit, roba del genere, o se ce lo vedi, insomma, se sono in programma altre iniziative, altri appuntamenti, e ovviamente se ci sono di lanciarli da queste radio? Per il momento no, nel senso che diciamo abbiamo cercato di lavorare per vedere il processo, per cercare, ecco, di informare più persone possibile. Credo che sia andata molto bene, come dicevo anche l'altra volta, soprattutto in Italia c'è stato davvero moltissimo supporto, molto interesse, e questo comunque è positivo, perché vedere che comunque le persone si interessano in maniera attiva e cercano di portare la loro solidarietà in maniera attiva, sicuramente da molta forza e da molta determinazione anche per il lavoro di supporto. Per il momento penso di no. Se ci sarà occasione sicuramente di andare a parlare in giro, a qualcuno voglia di ospitarci come gruppo di supporto, come persone insomma che hanno seguito il caso, volentieri, ma essenzialmente, ecco, per condividere magari quello che può essere un'esperienza importante a livello di solidarietà, eccetera, anche perché comunque, almeno parlo a titolo personale, organizzare il supporto è una cosa che comunque si impara, no? come tutte le altre cose che uno può fare nella propria insomma, attività politica. Quindi magari condividere, ecco, questo tipo di esperienze può sicuramente essere positivo per altre persone che poi magari possano trovarsi nella situazione di dover supportare degli altri compagni. Insomma, è sempre qualcosa che secondo me vale la pena discutere e dibattere. Però diciamo, per mobilitare il supporto, quindi benefit o altro, per il momento no. Non sappiamo ancora come questo evolverà, perché purtroppo c'è ancora la richiesta comunque dell'allevatore di un risarcimento danni di 105.000 euro, non so, non ricordo con esattezza, che è ancora da approvare, e sembra questo aspetto verrà gestito in un processo civile che non sappiamo ancora quando e come avverrà. Però insomma, nel caso fosse un esito negativo per insomma per gli attivisti, non sarebbe, ecco, una cosa da poco avere questo tipo di, insomma, l'obbligo di pagare 100.000 euro. Ecco, questo è un'incognita che ancora non sappiamo come andrà e che chiaramente potrebbe poi, ecco, necessitare del supporto del movimento per cercare di, insomma, supportare le persone coinvolte. Senti, ci vuoi ricordare i contatti? Certo, e allora l'email a cui non rispondiamo per quanto riguarda il gruppo di supporto è svat@raiseup.net, e chiunque voglia sapere di più sul caso, insomma, o avere informazioni sulle prossime iniziative o eventuali novità, insomma, ci trovate a questa mail. E come dicevo, abbiamo istituito purtroppo, non lo so, una pagina Facebook per cercare di facilmente mandare fuori, insomma, le informazioni, e basta cercare, adesso non so esattamente l'URL, però supporto debarking for su Google, Facebook, e

Allora, sfumiamo la canzone e torniamo in diretta per leggervi quelle che sono notizie in brevi dal mondo. Qualche notizia dal mondo, cominciamo con quella cattiva, presa da directaction.info, riguardo a un prigioniero inglese, George House, nel mar, leggiamo direttamente dal sito, traduco dall'inglese all'italiano, quindi insomma, magari mi perdo qualcosa. Nel marzo del 2013 George è stato condannato a 12 mesi di prigione per aver danneggiato lo stadio di Coventry destinato alle corse dei cani, dei levrieri, e per aver cercato di liberare dei topi dall'università di Warwick. Per favore mandateli lettere di supporto. Per trovare l'indirizzo, ripeto, andate sul sito Direct Action, dall'inglese azione diretta.info, e lì trovate tutto anche i recapiti di George House. Questa invece è una buona notizia, presa dai media, diciamo, si è chiusa la stagione di caccia al cacciatore di Sea Shepherd. Sea Shepherd è l'organizzazione che con attivisti di tutto il mondo insegue le navi baleniere giapponesi cercando di ostacolare la caccia. Leggiamo dal Corriere della Sera: il Giappone chiude la caccia alle balene dopo riscontri con gli attivisti. L'annuncio del gruppo ecologista è lotta contro la caccia scientifica, perché il Giappone giustifica la mattanza di balene con la necessità della ricerca scientifica. In realtà, se è una caccia destinata a uso alimentare, uccisi meno di 75 cetacei sui 950 programmati. Dopo una serie di violente collisioni tra le baleniere e la flotta di Sea Shepherd, la nave mattatoio Nissin Maru e le navi arpinatrici si sono allontanate dal territorio antartico australiano verso l'oceano indiano, seguite dalle navi di protesta. Tra l'altro, un'altra buona notizia che riguarda Sea Shepherd: mesi fa era girata la notizia che il capitano di Sea Shepherd, Arthur Watson, personaggio peraltro da prendere un po' con le discutibile, però comunque al di là di questo, era stato su di lui pendeva un mandato d'arresto del Costa Rica che per una azione di ostacolo, diciamo, che Sea Shepherd aveva fatto contro la pesca di frodo nel Centro America. Ora questo procedimento si è chiuso e Paul Watson non corre nessun rischio, diciamo, di finire in prigione. E ok, e poi continuiamo con le notizie. Sì, leggiamo adesso un articolo che è uscito su Informazione, un comunicato che viene da Barcellona e lo trovate: Spagna, rivendicazione di azioni anarchiche e risposte ai nichilisti. Barcellona ha comunicato d'azione anarchica e risposte nichilisti. Noi prendiamo uno stralcio, poi chiunque fosse interessato chiaramente può andare a leggerselo in maniera completa. Secondo noi gli attacchi contro il sistema sono essenziali nella nostra lotta, ma ci siamo ingannati noi stessi. Una lotta non consiste solo negli attacchi. Gli attacchi non sono più importanti della necessità di prenderci cura di noi, di mantenere e diffondere la nostra storia collettiva, di creare relazioni basate sul dono, la solidarietà e la reciprocità, di immaginare nuovi mondi e nuove lotte, di affrontare il nostro isolamento e costruire relazioni sovversive e oneste con persone che sono al di fuori dal ghetto categorico e politico in cui lo spettacolo ci mostra. È evidente che abbiamo perso diverse volte in passato e che più dura di tutti è la frattura storica e la perdita della memoria della nostra lotta. Ci si trova a dover ripartire da zero. L'iperalienazione contro cui il nichilismo è reazione logica non è che il risultato della sconfitta nelle lotte passate. Ci troviamo in un insieme che bisogna distruggere solo perché non resta più niente di ciò che avevamo costruito nel passato. Per non perdere tutto, ogni volta che ci solleviamo, dobbiamo sostenerci, non come gli individui isolati, ma come una comunità, una lotta collettiva e multigenerazionale. E ciò non lo si può ottenere dando esclusiva priorità agli attacchi. La gerarchia delle tattiche appartiene alla sinistra ed è stata assai poco modificata in seno al nichilismo. Hanno scelto la punta della lancia, le azioni presumibilmente più importanti, come le sole che cantavano, e hanno dimenticato il resto. Si tratta di una visione patriarcale e controproduttiva. È l'oblio di tutte le azioni, sono necessarie per la vita e così per la lotta. Prima rese invisibili dal patriarcato, poi dal capitalismo e infine dalla sinistra cosiddetta anticapitalistica. La tattica la più aggressiva non ha senso e non può essere sostenuta che in un complesso di azioni di ogni tipo, in quanto sono libertarie e dirette. Non capendo che lottare significa portare con noi un nuovo mondo che aspetta di nascere dalle ceneri del sistema di dominazione, ci trasformiamo in semplici armi contro il capitalismo, in strumenti destinati a distruggere senza le altre cose di cui gli uomini hanno bisogno per vivere e lottare. È il capitalismo che vuole trattarci come strumenti. Noi non dovremo fare la stessa cosa. In realtà è un piacere sentir parlare degli attacchi dei nichilisti e degli altri compagni. Sappiamo bene che il coraggio e la rabbia sono due degli elementi più importanti per ribellarsi. In particolare a Barcellona abbiamo sentito che è stato un errore che negli ultimi anni ci sono stati pochi attacchi illegali, mentre era apparso più opportuno partecipare ad ampi spazi. Ok, poi insomma qua ci fermiamo, poi chiunque insomma volesse proseguire nella lettura, ricordiamo che abbiamo preso da Informazione Spagna rivendicazione di azioni anarchiche a risposta dei nichilisti. E allora, per quanto riguarda invece gli appuntamenti, vi segnaliamo due iniziative fatte dal gruppo Liberazione Animale Genova. Vi leggo uno stralcio del comunicato che potete tranquillamente leggere sul loro blog liberazioneanimalegenova.noblogs.org. Lo specismo permea la società in cui viviamo nei suoi aspetti più molteplici, fonda le sue radici nella concezione dell'altro, sia esso umano o animale, come qualcuno o qualcuna, funzionale alle nostre esigenze o benefici. Questo tipo di percezione, che nel corso della storia ha giustificato violenze, torture e sofferenze ardue ad immaginarsi ai danni di chiunque fosse altro rispetto al gruppo dominante, ha trovato nella società consumista una particolare forma di espressione. Se infatti prima era prima dell'era industriale e dell'inizio del moderno processo di urbanizzazione, la violenza nei confronti dell'altro animale era largamente esercitata in maniera diretta, ad esempio la macellazione degli animali veniva gestita autonomamente a livello familiare, oggi quello stesso tipo di violenza è stata meccanicizzata, sistematizzata ed è gestita dall'industria in maniera indiretta. Poi comunque il comunicato continua, vi vengo a leggere soltanto l'ultimo pezzetto. Domenica 17 e domenica 24 marzo saremo in strada per mettere in evidenza questo contrasto e proporre la realtà dello sfruttamento animale agli occhi delle persone attraverso immagini, video provenienti da allevamenti, macelli ed altri luoghi di sfruttamento e diffusione di materiale gratuito. Quindi domenica 17 marzo alle ore 15 fino alle 18.30 in via San Lorenzo a Genova e domenica 24 marzo dalle 15 alle 18.30 sempre in via San Lorenzo a Genova. Un altro appuntamento domenica 24 marzo è organizzato da Nemesi Animale Essere Animali, leggiamo però dal sito di nemesianimale.net, corteo per l'abolizione e allevamenti animali da pelliccia. Domenica 24 marzo Capralba Cremona, concentramento alle ore 13 a via Piave all'altezza delle scuole elementari, partenza del corteo alle ore 14. Dopo l'interesse suscitato dall'investigazione Morire per una pelliccia, di cui abbiamo parlato anche due puntate fa con il sito che è stato creato appositamente sull'indagine sugli allevamenti da pelliccia italiani, visionilibere.net, e il partecipatissimo successo degli eventi di sabato 2 marzo a Milano e Bologna, vogliamo amplificare e rendere inarrestabile la voce delle decine e decine di migliaia di individui prigionieri negli allevamenti di visione in Italia. Per questo lanciamo un corteo a Capralba, sede dell'allevamento MIFO, uno dei più grandi in Italia, struttura modello ipertecnologica di proprietà di Giovanni Boccù, presidente AIAB, Associazione Italiana Allevatori Visoni. Dopo aver portato in piazza davanti agli occhi di tutti le gabbie dove quegli animali passano tutta la loro breve vita, vogliamo portare le persone consapevoli e decise a lottare per questo obiettivo in uno dei luoghi dove oltre 20.000 visoni sono tuttora detenuti. Per maggiori informazioni ricordiamo nemesianimale.net o essereanimali.org. Sempre parlando di animali da pelliccia, ricordiamo insomma anche questa notizia che trovate sempre su Nemesi Animale, che in Slovenia sono stati vietati gli allevamenti da pelliccia. E infatti insomma c'è un articolo che trovate che dice appunto che vengono vietati gli animali da pelliccia nel territorio, e quindi la Slovenia entra a far parte insieme ad altre nazioni come l'Inghilterra, l'Olanda, l'Austria, la Croazia e la Bosnia, insomma un paese in cui questa pratica viene vietata. E vabbè, poi insomma ci sono l'articolo continua, dà anche altre informazioni. Appunto anche per quanto riguarda la vivisezione, che viene introdotta la figura del comitato etico, vabbè insomma cose varie, ok, per cui insomma, potete andare a leggervelo. E un altro appuntamento da ricordare per questo mercoledì 13 marzo al Laurentino 38 Squat, ci sarà una cena vegan per insomma alle ore 20, un benefit per gli indagati del 15 ottobre. This day, beagles and pigs and rabbits and apes. You'll never get a mess a place like this. tortures end. Take your freedom by the hand. Vergogna di che sta interrompendo questa canzone. E poi ricordiamo un appuntamento di cui avevamo parlato anche la scorsa settimana, con un'intervista a un attivista del coordinamento fermato dei grillini, il 20 aprile, sabato 20 aprile 2013 a Milano, corteo nazionale contro la vivisezione organizzato dal coordinamento fermare Green Hill e il comitato Montichiari contro Green Hill, assieme a molte altre realtà antispiciste e antivivisezioniste. Trovate tutto sul sito fermaregreenhill.net. Al corteo partecipano antispecisti Libertà di Brescia, coordinamento contro il mega macello di Manerbio, Essere Animali, Nemesi Animali, Vita da Cani, ovviamente tutte le individualità. Interessante, e ci teniamo a leggerla qui in qualche modo, la postilla: le nostre idee, chi lotta per la liberazione animale, leggiamo dal sito fermaregreenhill.net, non può non essere parimenti contro lo sfruttamento e la prevaricazione dell'essere umano su altri esseri umani. Non è accettabile essere d'accordo, anche solo placidamente indifferenti, con atteggiamenti, pratiche e linguaggi discriminatori. Non sono quindi ammessi nel corteo personaggi recanti simboli o inneggianti ad ideologie che si richiamano al fascismo, al razzismo, al sessismo, allo specismo, né chi sostiene o si accompagna a personaggi politici che di tali idee si fanno portavoce. La nostra lotta è politica proprio perché mina le fondamenta alla categorizzazione discriminatoria della nostra società. Saremo in strada per tutti gli animali, nessuno escluso. E lo sai questo che è il momento di Albino, sì? Che vanta anche un'illustre parentela, probabilmente, tale Albino, no? E dai, dilla pure oggi. Non saprei. Gutes Gefühl, dann kommen solche Zeilen raus, guck raus, draußen ist kühl, aber in mir spür ich Wärme, Vertrauen ins Leben. È crucco Albino. Cioè, fanno tipo 4 mesi che io metto Albino. No, ma io ho sempre pensato fosse delle Puglie o giù di lì, insomma. Vergognati. C'è 50 anni ancora dici ste cavolate. Ohne nach Freie zu streben, ein gutes Gefühl haben und all das Leid schreit dagegen. Hey, du weißt nicht, wer ich bin und auch nicht, was ich denk, was ich glaub, was ich brauch, was ich lieb und was mich kränkt. Doch trotz allem machst du dir ein Bild über mich. Glaub mir, wer ich wirklich bin, weiß ich selbst manchmal nicht. Ich weiß nur, ich lebe Gott und jeden Tag mit den Kindern. Und dass so viele Menschen leiden und es lässt sich kaum verhindern. Ich weiß, ich lieb die Musik und dass ich meine Mutter schrecklich vermiss. Das ist echt, das bin ich, unmännlich. Und wäre das alles so einfach, wüsstest du immer noch nichts. Auch wenn wir uns nicht kennen, bin ich froh, dass es dich gibt. Denn wer wär ich schon, wenn niemand da draußen fühlt, was ich schreib. Doch du verstehst, was ich fühl, denn du fühlst, was ich schreib. Ich hab viele Fehler gemacht und für jeden tut's mir auch leid. Und bedank mich mit dem, bei jedem, der mir verzeiht. Denn ich bin nicht perfekt, ich bin ein Mensch wie du. Und vielleicht hören mir gerade deshalb die Menschen gern zu. Doch heute trägt mich die Hoffnung und nichts betrübt meine Sicht. Ich bin glücklich, dass ich lebe und genau so fühle ich mich. Und ich hoffe, dass du dieses Gefühl in dir selbst erkennst. Denn du kannst bei anderen nur entzünden, was selbst in dir brennt. Gibt's einen da draußen, der hinten blieb? Der Texte schrieb, der in der Gänsehaut beim Hören kriegt innere Trieb, zu sagen, was mit dem Herzen liegt. Mike und Albino, Reiter und Seite. Wie soll ich Frieden spüren, ohne nach Freiheit zu streben, ein gutes Gefühl haben und all das Leid schreit dagegen? Es zwischen all dem Leid strebe ich nach Glück. Und nur weil ich es nie vergesse, gehe ich ein Stück näher meinem Ziel zu. Und ihr seid dabei. Das Ventil ist die Bühne voll Wut und diese macht frei. All die Städte, wo wir spielten, gaben uns Freude und Kraft. Der Musik verbindet, sie hat uns Freunde gebracht. Das ist der Grund, warum wir reisen, wenn man noch Spaß dran haben. Und Spaß gibt's viel mit Mike und Dan im Wagen. Danke, dass ihr da seid. Ohne euch gäb's Albino nicht und das ist die Wahrheit. Und deshalb geh ich's an alle, die mich seit Jahren begleiten, mich unterstützen, motivieren und meinen Plan begreifen. Ohne euch wär ich eine Kerze, doch nicht fähig zu brennen. Doch grad das Feuer ist die Antwort auf die Frage, wozu lebe ich denn? Wie soll ich Frieden spüren, ohne nach Freiheit zu streben? Vabbè, allora torniamo in onda perché a quanto pare c'è chi non apprezza il rap tedesco. In particolare Albino, che invece io apprezzo piuttosto. Non capisco perché diciate il contrario. Vabbè, la cena andiamo. Di felicità al panino Albino, non so. Vabbè, banalizziamo sempre tutto, bravi. Poi, poi chiediamoci perché c'è Grillo in giro a fare le chiacchiere. Banalizziamo tutto. Comunque, ecco, la trasmissione la dobbiamo concludere perché uno di noi deve andare a fare il conclave. Ciao a tutti. E sei proprio tu, infatti. Il nuovo papa vi saluta. Ma se diventi papa, che ci prom-? Ma esiste un movimento 5 stelle del... Se divento papa, chi se fila a tutti quanti? Ma chi va mai conosciuto? E vabbè, giusto però. La mia pelliccia di ermellino. Forse è meglio così, eh. Avrei quasi paura. Probabilmente sì. Con la mia pelliccia di ermellino farei veramente un figurone. No, sicuramente, ti ci vedo proprio. Va bene, allora intanto è finita anche la canzone. Quindi possiamo insomma salutarci. Pace e bene a tutti. Ricordiamo magari i contatti. Per scriverci potete mandare una mail a ragazzalatra@inventati.org oppure il sito radiopossum.noblogs.org. Allora, come al solito, un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro che sono privati della propria libertà personale. Esseri umani o animali? Perché con questa voce non lo so, però vabbè, ci lasciamo così, con questo interrogativo. Ciao!